Job 24. Bentornati a Job 24. Oggi indichiamo quali sono e saranno le professioni più richieste e quali i titoli di studio più spendibili sul mercato del lavoro e quindi, se corrispondenti alle inclinazioni personali, da privilegiare. Le stime sono quelle del Centro Studi di Unioncamere in base ai dati del sistema informativo Excelsior realizzato in collaborazione con il Ministero del Lavoro. E i dati relativi ai titoli di studio sono stati presentati oggi a Verona in occasione di Job Orienta, manifestazione di cui abbiamo parlato qui a Job 24. E allora sentiamo di quali figure c'è bisogno in questo periodo di crisi da Domenico Mauriello del Centro Studi Unioncamere di Roma. È un momento di crisi e infatti i dati che noi rileviamo annualmente come sistema informativo Excelsior sul mondo delle imprese ci danno una diminuzione dei livelli occupazionali per questo 2009. Stiamo parlando di circa 220.000 posti di lavoro in meno nelle industrie e nei servizi, considerando però soltanto il lavoro dipendente. Però si tratta di una diminuzione dell'occupazione che risulta tutto sommato contenuta. Per spiegare perché le imprese sono riuscite comunque a tenere ancora abbastanza sostenuti i livelli occupazionali nonostante il tracollo di fatturato, di ordinativi e di produzione, abbiamo provato a enucleare un fenomeno che quest'anno, ancor più con la crisi, è risultato evidente, che è la maggiore qualità delle risorse umane che le aziende richiedono. Una qualità che è evidente dal titolo di studio e dal livello professionale delle figure che le imprese intendono assumere e hanno programmato di assumere nel corso di quest'anno. Quali sono queste figure? Le figure che noi consideriamo introvabili, ovvero le figure che nonostante una diminuzione della domanda di lavoro da parte delle imprese sono ancora difficilmente reperibili sul mercato, spaziano un po' dalle professioni di più alto livello, stiamo parlando di quelle a maggiore contenuto scientifico e tecnico, a quelle anche a carattere artigianale. Tra le prime si evidenziano sicuramente quelle che chiamiamo white jobs, cioè le professioni bianche, quelle legate alla salute e all'assistenza, come infermieri, fisioterapisti, oppure quelle legate ancora alle attività di progettazione e ricerca, oppure quelle legate all'efficienza e alla qualità produttiva, al controllo dei processi produttivi, oppure ancora di più tutte le professioni legate al mondo dell'ICT, alle nuove tecnologie, come programmatori informatici, sviluppatori di software, per i quali le imprese continuano a avvertire difficoltà legate soprattutto al profilo qualitativo e dunque alle competenze che i candidati che si presentano e bussano alle porte delle imprese hanno e che invece sono diverse rispetto a loro desiderata. Considerato quanto detto, c'è da pensare che i titoli di studio che pagheranno di più in un immediato futuro sono sempre quelli legati alle scienze matematiche o al settore medico? Esatto, stiamo parlando soprattutto delle lauree in discipline economico-statistiche, dove c'è ancora un gap forte nonostante la minore domanda da parte delle imprese, un gap che si avverte anche appunto per i laureati in discipline mediche e sanitarie e in discipline tecnico-scientifiche, stiamo parlando non solo di ingegneria ma anche di matematica, fisica, biologia, geologia, chimica, farmacia, agraria, dove seppur in misura inferiore rispetto allo scorso anno c'è ancora un fabbisogno espresso dal mondo produttivo che ahimè l'università non riesce a coprire, stiamo parlando di circa 8.000 laureati. Eppure ci sono laureati in chimica, laureati in geologia, ma anche in matematica o in fisica che si lamentano per la difficoltà nel trovare un posto di lavoro dopo l'ottenimento del titolo. Ecco, si lamentano essenzialmente perché le imprese in molti casi, anche per quello che riguarda le discipline tecnico-scientifiche, preferiscono un'esperienza lavorativa oltre alle conoscenze e competenze che i ragazzi hanno acquisito durante l'iter universitario. Su questo molto si può fare ancora sul versante dell'orientamento e dell'alternanza scuola-lavoro, che permetterà anche ai diplomati, per quello che riguarda i livelli di studio più basso, e ai laureati di acquisire comunque un linguaggio spendibile anche in azienda subito dopo la laurea. Non dimentichiamo che appunto altri fenomeni che possono limitare comunque l'incontro fra domanda e offerta di lavoro sono delle variabili legate ad esempio al territorio nel quale il giovane ha studiato e che magari non vuole abbandonare per raggiungere un'opportunità di lavoro al capo opposto della penisola, piuttosto che delle preferenze per quello che riguarda il lavoro autonomo, piuttosto che il lavoro dipendente, per quello che riguarda ad esempio il lavoro in piccola impresa piuttosto che in grande impresa. E tutto questo non fa altro che acuire il mismatch di cui vi ho parlato. Ed era Domenico Mauriello del Centro Studi Unioncamere di Roma. Se volete riascoltare, fatelo al nostro sito www.radio24.it cliccando sull'archivio di Gio24. È tutto, ci risentiamo lunedì sempre alle 16.50 e replica alle 22.05. Un buon fine settimana da Roberta Pellegatta. I hold, I hold, I hold.